Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. A mandare fuori pista la TR72 a Fiumicino lo scorso 2 febbraio pare sempre più probabile sia stato il vento, un wind shear nel posto sbagliato e al momento sbagliato. Si tratta di una improvvisa e violenta corrente d'aria discendente, il più delle volte causata da un temporale nelle immediate vicinanze, ed è un fenomeno molto circoscritto e particolarmente pericoloso per il volo aereo, perché il vento può colpire con intensità differenti in punti diversi l'aereo, sbilanciandolo improvvisamente, portandolo a impennarsi, a inclinarsi lateralmente oppure a schiacciarsi al suolo. Ma è anche un fenomeno prevedibile con sufficiente anticipo da evitare il peggio, come ha tenuto a sottolineare in questi giorni il professor Franco Prodi, che è in linea con noi. Buonasera Prodi. Buonasera, buonasera. Fisico dell'atmosfera di fama internazionale e coordinatore del progetto Rivona dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, che mira proprio a analizzare fenomeni improvvisi come il wind shear per dare al pilota un'allerta tempestiva, diciamo così, durante il volo. Dunque, professor Prodi, le chiedo, ci può spiegare in modo naturalmente molto semplice come si forma uno di questi wind shear, quali sono gli ingredienti principali? Possiamo, per introdurci un pochino, parlare del temporale e dei suoi effetti di rischio, diciamo, per la navigazione aerea. Possiamo immaginare, diciamo, un temporale come un fenomeno di profonda instabilità dell'atmosfera, per cui c'è come un grande tubo, diciamo, d'aria che parte dal basso e va verso l'alta troposfera, al quale corrisponde un tubo che va dall'alta atmosfera verso la superficie, nella cosiddetta corrente ascendente che si forma nel cuore del temporale, si formano goccioline, sì, per condensazione, nella parte più alta cristallini, le goccioline possono poi fare anche embrioni di grandine, ci sono evidentemente i fulmini, ci sono elevate turbolenze, ma negli aeroporti la bestia nera è proprio il wind shear, nel senso che il temporale ha associato, diciamo, alle precipitazioni una corrente d'aria fredda che, come fosse un fluido, diciamo, a densità maggiore, che scorre dentro il fluido a densità minore, quando arriva al suolo questo deve diciamo, allargarsi. Come un getto dell'acqua del rubinetto, che quando tocca il fondo del lavandino si allarga improvvisamente. Allarga, ecco. E l'aereo si trova in fasi cruciali, quando la velocità è diminuita, portanza vicina a valori critici, si trova con questo shear, che vuol dire, insomma, in inglese il taglio del vento. Abbiamo gli effetti che lei ha bene ricordato. Poi ci sono ovviamente anche altri aspetti: quando la pioggia è molto molto forte sulla pista, ci possono essere fenomeni di aquaplaning. Quindi, diciamo, c'è un campo internazionale, una forte ricerca per la limitazione dei rischi di volo, perché bisogna tenere presente che la metà praticamente degli incidenti aerei ha origine meteorologica, ha causa meteorologica. Ah, ecco. E di questo 50%, il 90% è associato al temporale. Certo. Pochi sono gli incidenti meteorologici in aria cara, ci sono anche quelli, ma sono abbastanza. Ecco, una caratteristica di questi eventi è di essere molto localizzati, cioè nel senso il temporale dove colpisce duro di solito su un'area anche abbastanza piccola, no? Sì, questo è ben noto anche per la grandine, per esempio. Esatto. È noto che può colpire un podere, non il podere vicino, perché? Ecco. Perché è un collasso di una struttura verticale. Quello che però vorrei spiegare, insomma, è che sono fenomeni che non sono prevedibili col sistema, diciamo, classico delle previsioni del tempo, che fanno delle previsioni molto più su larga scala, non si concentrano su fenomeni così piccoli. Qui invece, per beccare, diciamo, questi fenomeni che sono un po' improvvisi e un po' anche molto circoscritti, ci vuole un altro tipo di attrezzatura. Però si possono prevedere. Ci spiega come si fa? Noi abbiamo proposto, ci vogliono dei radar, questo, no? Questo progetto che si chiama Rivona, rischi per il volo e nowcasting aeroportuale, bandito dalla Regione Puglia, quindi l'aeroporto interessato sarà a Brindisi. Abbiamo impostato con due radar meteorologici Doppler e in doppia polarizzazione, posti con su una direttrice, due direttrici che fanno 90 gradi rispetto all'aeroporto di Brindisi, con queste sì. due componenti noi riusciamo a costruire appunto la dinamica. La direzione, perché proviamo a spiegare, insomma, questi radar vedono, tra virgolette, le precipitazioni, vedono i groppi di vento, come funziona? Il radar da strumento bellico nel 1948 si è capito che osservava bene i temporali, ed è stato fatto questo Thunderstorm Project a Chicago, e di lì è cominciata, diciamo, la radar meteorologia come disciplina. Un radar normale vede, siccome manda degli impulsi, ogni impulso è come un tronco di cono che va nella nube e torna indietro. Dentro quello c'è una popolazione di idrometeore, che possono essere goccioline, gocce di pioggia, fiocchi di neve, grandi. Ecco, allora il problema è di interpretare quello che è il segnale di ritorno. Allora, dal 48 adesso si sono fatti degli enormi progressi, e quindi si riesce a vedere se queste idrometeore, per esempio, sono sferiche o sono cristallini piani, cadono orizzontalmente, oppure sono... Quindi per esempio se è neve grandine piuttosto, esatto, che... Cioè dalla forma, se... il radar a doppia polarizzazione, dalla polarizzazione la forma, e poi il Doppler invece aggiunge questa conoscenza della velocità dell'idrometeora lungo la direttrice in cui sta sparando. La direzione, diciamo, la velocità con cui si muove verso il radar, sostanzialmente. Allora, ecco, con due di questi, è importantissimo capire che con due di questi riusciamo a costruire la dinamica proprio di come si muove il fluido del temporale, insomma, che sostiene le precipitazioni, e quindi quando succede questo fenomeno di gravity current, di corrente di gravità, di questa discendenza che poi dà luogo al wind shear. Un wind shear, per esempio, con quanto preavviso si riesce a individuare? Il preavviso deve essere mandato direttamente al cockpit del pilota, insomma, certo, a bordo, e nel giro di pochi minuti, insomma. Insomma, oggi è possibile prevedere questi fenomeni meteorologici improvvisi e violenti, quelli che fanno più danni. C'è una scienza nuova che se ne occupa, il nowcasting, e domani continueremo a parlarne con il professor Franco Prodi, che intanto ringrazio. Buonasera a tutti. Appuntamento domani.